Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Con queste note del preludio della suite numero 1 di Bach iniziamo l'incontro di oggi e vi spieghiamo subito perché, ma intanto presentiamo l'ospite che è Sandro Boscaini. Buongiorno, dottor Boscaini. Buongiorno a lei. Sandro Boscaini è presidente della Masi Agricola ed è anche grande sponsor attraverso la Fondazione Masi del premio Masi che nei prossimi giorni verrà assegnato, poi vedremo a chi, è assegnato tra gli altri a Mario Brunello. Mario Brunello è colui che ha eseguito, che esegue questa suite di Bach, e quindi abbiamo scelto questa musica per introdurre questo incontro che parlerà un po' di vino, un po' di musica, un po' di cultura e tanto di Veneto, perché Boscaini ha un requisito fondamentale, è un grande amante della sua terra. Certamente, non si può che essere amanti della propria terra quando si producono i frutti e si lavora sui frutti della propria terra. Allora vediamo un po' la carta d'identità di Sandro Boscaini, come è nato, ma nel senso di nascere alla passione agricola. Viene da una famiglia di agricoltori, di viticoltori, direi secolare. Sì, una famiglia di viticoltori secolari e di produttori di vino. Se consideriamo che appunto il nome stesso Masi non è un nome di famiglia, la nostra famiglia si chiama Boscaini, l'azienda si chiama Masi e deriva da una località, Vaio di Masi, che vuol dire piccola valle Masi, nel cuore della Val Pulicella classica, e questo terreno che ancora ci appartiene, che è appunto il fiore all'occhiello della nostra azienda, è stato acquistato nel 1772 per via di matrimonio oltretutto dai Boscaini, per cui da allora per 6 generazioni, 7 ore con i miei figli, la stessa famiglia coltiva gli stessi vigneti ampliandoli poi al di fuori, ma appunto siamo uno dei produttori storici, uno dei tra i più storici della terra veneta. Quindi è ancora possibile mantenere una tradizione? Ovviamente i metodi di produzione sono cambiati, si sono ammodernati, anche le dimensioni dell'azienda si sono ingrandite. Assolutamente, le dimensioni, specialmente negli ultimi 50 anni, non perché siamo bravi noi, ma perché il mondo ha girato in questo modo, la globalizzazione, ma l'internazionalizzazione prima, il successo del vino italiano, tutte con cause che hanno fatto sì che le piccole aziende, se avevano voglia di crescere, potevano crescere e crescere bene. Ma appunto la domanda è molto pertinente, mi sembra. Si nasce nel vino e ci si innamora di questo mestiere, perché innamorarsi del vino è come avere un occhio privilegiato per vedere la propria terra, la propria gente e per poter poi esibire nel mondo il frutto di questa cultura. Ecco, un'azienda familiare, quindi un'azienda che va avanti con i suoi figli, andate sempre d'accordo? Beh, insomma, come dappertutto, anche tra moglie e marito e ancor più tra fratelli o tra papà e figlio, ci sono momenti di discussione, momenti di confronto, a volte di scontro, ma in linea di massima quello che io ho sempre desiderato, mio padre lo stesso, è che ci fosse una comunità di intenti sui valori profondi. E quali sono i valori profondi? L'amore della terra, la professionalità, la capacità di far bene il proprio mestiere. E quindi con questi valori si può crescere portando appunto la qualità. Uno dei punti di forza è la qualità del vostro prodotto. Sì, io vedo che effettivamente è tutto un pacchetto che si va a vendere, no? Uno innamorato della propria terra non può che esprimere il meglio della propria terra, cioè avere la capacità di esprimere la qualità della propria terra. Per far questo occorre cosa? Occorre non solo amore ma anche professionalità. Allora da lì nasce tutto un discorso tecnico, di approfondimento tecnico, di investimento, eccetera, eccetera. Nel complesso, per un prodotto come il vino, che porta non solo le sue valenze alimentari, ma tutte e ancor più oggi le sue valenze emozionali e culturali, questa è l'unica via. Ecco, e siete riusciti a portare questi valori anche all'estero. Voi avete avuto la possibilità e avete appunto sfruttato questa possibilità di acquistare dei terreni in Argentina, di produrre vini in Argentina. Sì, il nostro lavoro con l'estero è prevalentemente ovviamente un lavoro di distribuzione, e quasi il 90% della nostra produzione va all'estero in più di 85 paesi in tutto il mondo, per cui siamo un po' all'avanguardia come produttori italiani, come internazionalità di distribuzione, ma abbiamo anche provato appunto l'internazionalizzazione della produzione mantenendo le nostre radici. Non è che abbiamo fatto una delocalizzazione, noi abbiamo voluto sfidare un detto che ha più di 2000 anni di storia. Plinio ha detto che le uve veronesi, se piantate fuori dalla propria zona d'origine, che sarebbe la Valpolicella, le colline attorno al lago di Garda e a nord di Verona, quando vengono piantate appunto al di fuori, piangono e non danno buon frutto. Allora, questo è stato per me un intrigante punto interrogativo, perché in effetti è vero, abbiamo una delle uve considerate dai tecnici tra le migliori d'Europa e sicuramente dell'Italia, la Corvina, e altre uve similari, però sono piantate in un'area molto ristretta, parliamo di qualche decina di chilometri a est-ovest e di 15-20 chilometri, poi lei conosce la zona, le colline che sono vicino al lago di Garda, e lì si esaurisce la Corvina. Allora, perché? Perché questo? Perché è una uva delicata, però l'uva delicata può trovare ambienti delicati dove possa essere crescita. Abbiamo fatto una grande ricerca, io personalmente mi sono buttato in questa ricerca in vari posti, finché abbiamo trovato in Argentina l'ambiente che crediamo e ne abbiamo i risultati essere ideale. Quindi una sfida per portare le radici proprio fisicamente dell'uva in Argentina, per portare un po' di cultura anche veneta in Argentina. Incontri. Bentornati al nostro incontro di oggi sulle note della suite numero 1 di Bach, eseguita da Mario Brunello. Proseguiamo il colloquio con Sandro Boscaini, presidente della Masi Agricola, grande sponsor del premio Masi e di cui Mario Brunello sarà premiato, violinista veneto. Abbiamo concluso la prima parte parlando dell'Argentina, della sfida di portare in Argentina lo spirito veneto. Avete trovato una terra fertile, giustamente scelta con difficoltà, probabilmente anche gli argentini hanno un po' di tradizione, ci sono molti veneti in Argentina. Assolutamente, questa è stata una, perché quando si parla di terroir normalmente uno pensa solo al suolo e alle condizioni climatiche, ma non è tutto lì. Terroir, come dicono giustamente i nostri cugini francesi, è un misto di cultura e di condizioni naturali. Il terroir implica in particolare appunto la tecnologia e l'attitudine dell'uomo di quella terra a far sì che quella terra diventi vocata al vino. Ecco un punto fondamentale. Siamo andati in Argentina perché abbiamo trovato condizioni climatiche, condizioni di terreno adatte al nostro progetto, ma più che altro abbiamo trovato nella zona di Mendoza che il 50% della popolazione è italiana e del 50% il 70% è veneta, molti veronesi. Ecco, allora parliamo di questa cultura veneta. Il premio Masi ormai da più di 20 anni premia soprattutto gli esponenti che hanno portato, che sono nati nel Veneto, che hanno portato in Italia, nel mondo, l'espressione di questa venicità. Indubbiamente però premiando anche altre persone che hanno valorizzato il vino. Per esempio quest'anno quali saranno i premiati? Che ricordiamo alla fine del mese verranno appunto premiati in una grande manifestazione proprio da voi. Sì, è la 29esima manifestazione che facciamo, il primo premio è stato consegnato nell'81 appunto e ha avuto, devo dire, una sua progressione e un suo riconoscimento, e questo mi fa molto piacere ovviamente. Il premio, che era nato come semplice o puro riconoscimento alla civiltà veneta, si è poi arricchito attraverso un riconoscimento alla civiltà del vino, premio internazionale alla civiltà del vino, e più recentemente ad un premio Grosso d'Oro veneziano, per la con cui viene consegnata una moneta, la più internazionale delle monete della Serenissima Repubblica, che risale al XIII secolo, il Grosso d'Oro, appunto, per chi ha lavorato per la pace e la fratellanza universale con uno spirito di visione che era tipico e che è ancora tipico dei veneti, i quali, nonostante quello che si dice che sono xenofobi o così, sono molto aperti invece alle altre culture e curiosi delle altre culture. Ecco, quest'anno allora, premiati sono stati più di 100 nel corso degli anni. Indubbiamente sarebbe lungo ricordarli tutti. Quest'anno quali sono i premiati? Allora, per la civiltà veneta sono Altan, il famoso vignettista, appunto, Diana Bracco de Silva, della Bracco, la grande capitano d'industria, oltre che presidente dell'Expo 2015 di Milano. E che è stata, appunto, ospite peraltro in questi incontri nei mesi scorsi. Per cui allora lei ha avuto modo di conoscerla bene e di vedere che grinta anche. Ecco, grinta che nasce nel Veneto, perché non dimentichiamo, lei è figlia della parte marginale della Serenissima, venendo appunto dall'Istria. Ecco, e Mario Brunello, appunto, quello che abbiamo sentito, esecutore, sì, violinista. E violinista, oggi forse il più importante violoncellista del mondo. Per la civiltà del vino abbiamo uno scoop unico. Abbiamo un arcivescovo, il metropolita Sergi di Necresi, dalla Georgia. Ed è stata, è stato molta sorpresa, perché molti non sanno neanche che esiste il mondo del vino al di là della dell'ex cortina di ferro. Invece è un terzo incomodo con cui anche noi europei dobbiamo confrontarci. Le falde a sud del Caucaso, Georgia, Armenia e poi a fianco la Moldavia, ma poi venendo più a sud e più a ovest la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria, che hanno un patrimonio di viti e una professionalità incredibile, solo che sono rimaste come tutto nascoste dietro la cortina di ferro. Ma devono presentarsi al mondo, hanno la capacità di presentarsi al mondo e noi non possiamo non tenerne conto. Ecco perché la Commissione, giustamente, quest'anno è andata a pescare in un momento particolare in cui la viticoltura, su cui vive buona parte dell'economia georgiana, è in crisi perché nella loro faida con la Russia sono sotto embargo, non possono più vendere in Russia, e questi hanno bisogno di aprirsi al mondo, e questo arcivescovo si è messo a capo di questa cordata, capendo che non è solo sufficiente usare marketing nuovo, ma è necessario anche aprirsi alle tecnologie nuove, ad avere investimenti nuovi e acquisire una cultura della propria antica cultura, essere consci che lì è nata la vite e il vino. Ecco, dal modo con cui ne parla sembra proprio che lei abbia colto con favore la possibilità di confrontarsi anche a livello di mercato con nuovi competitori, con nuovi valori, con nuove qualità. Quindi l'allargare il mercato, lo scoprire anche nuove possibilità può fare bene anche alle nostre imprese. Assolutamente sì, ed è il messaggio che ci viene da là. La Georgia, con tutto questo patrimonio storico e questa sacralità del vino, eccetera, è rimasta chiusa in se stessa perché ha trovato molto facile avere un unico interlocutore commerciale, un unico mercato, la Russia. E adesso si trova nei guai. Noi non dobbiamo fare la stessa fine, dobbiamo essere capaci di confrontarsi nel mondo, sapendo che nel mondo chi ha birra può correre. E in questo caso è un chi gioco ha vino di parola, può correre, certo. Si potrebbe dire chi ha vino può correre, e c'è spazio per tutti, ed è il confronto che migliora e che convince la gente. Ecco, dobbiamo citare il vincitore del Grosso d'Oro, poi torniamo a parlare del vino. Il vincitore del premio, non dico il più importante, importante come gli altri, un grande scrittore ungherese. Certo, è Peter Esterházy, grande scrittore ungherese, non solo perché è un grande scrittore ungherese, l'abbiamo premiato, ma perché nella sua tematica, che è quella tipica della Mitteleuropa, con l'intrigo, la vecchia storia della Mitteleuropa, il crogiolo di razze e di popoli, ha avuto una storia personale di cui parla molto nei suoi libri, molto intrigante. Lui ha venerato e messo sugli altari suo padre per poi scoprire che era una spia dei russi, e questo l'ha messo in conflitto con se stesso e gli ha fatto rivivere tutto un modo di rapportarsi con la sua famiglia e la sua e le sue popolazioni. Ecco, quindi complessivamente un premio che parla molto di Veneto, ma che parla di un Veneto anche che è aperto, è grandemente aperto al confronto con le altre culture, con le altre civiltà, possiamo dire, in una prospettiva proprio di crescita complessiva, di portare dei valori che non sono dei valori di conflitto, ma che sono dei valori di collaborazione e di crescita, appunto, sia dal profilo culturale sia dal profilo economico. In effetti noi parliamo di Veneto allargato, e questo è il messaggio che ha portato all'interno del nostro premio Demetrio Volcici, che ne è stato per 9 anni il presidente. Veneto allargato vuol dire quel Veneto che sconfina nella Mitteleuropa, che si ricorda di essere stato per decenni parte dell'impero austro-ungarico, che si ricorda ancor più che attraverso la Serenissima era padrone del Mediterraneo e sconfinava addirittura in India e in Cina. Ecco, stiamo andando verso la conclusione. Abbiamo parlato appunto anche di mercato, di vini. Quali sono le prospettive, magari partendo proprio dal settore del vino, che lei vede per questa economia italiana che indubbiamente ha qualche difficoltà? L'economia italiana ha qualche difficoltà, i mercati del mondo hanno difficoltà, i mercati del mondo in questo momento sono nervosi e non sono attenti come erano qualche tempo fa alle peculiarità, alle cose di cultura e alle singolarità di ogni singolo territorio. Però noi non possiamo non dimenticare che l'unica nostra proposta vera e competitiva è la possibilità di dare prodotti, e non solo nel vino ma in generale, di dare prodotti che portino qualcosa di nostro, che abbiano un imprinting. Quando si parla di made in Italy, o ancora di più made in Toscana, made in Veneto, made in Piemonte, vuol dire che noi non vendiamo solo un prodotto, ma vendiamo una parte della nostra anima, e questo è il valore aggiunto nostro e la capacità che abbiamo. Oggi io parlo per il mio settore, la tecnologia c'è dappertutto, basta avere i soldi, la si compra. Le aree del nuovo mondo hanno capacità per terreni e per condizioni climatiche che sono strepitose. Le varietà di uva vengono trasportate con facilità. Cos'è che allora, e diciamo un'altra cosa, i costi sono quasi sempre molto più bassi, certo, che non da noi. Allora noi cosa vendiamo in più? Vendiamo l'emozione, vendiamo la storia, vendiamo, come quello che, come facciamo adesso attraverso il premio, una storia che sa di antico, ma sa di bello e di buono. E in questo c'è una grande passione, in fondo, e la possibilità di scoprire sempre nuove avventure, nuove potenzialità. Sì, certamente, bisogna che ci sia molta passione, bisogna che ci sia molta convinzione dei propri valori. E quindi con questo inno anche al Veneto, al Premio Masi, che verrà assegnato ufficialmente nei prossimi giorni, ringraziamo Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, grande sponsor del Premio Masi e della Fondazione Masi, di essere stato con noi questa mattina. Ringraziamo Peter Bascapè in regia, Anita Panizza in redazione, e con le note di Mario Brunello, che viene appunto premiato dal Premio Masi e della suite numero 1 di Bach. Ringraziamo quanti ci hanno ascoltato e diamo appuntamento la settimana prossima.